La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Amici del cinema, eccoci qua, La Rosa Purpurea, il nostro sabato pomeriggio a tutto cinema per raccontarvi il meglio delle uscite in sala cinematografica di questo fine settimana, giocare insieme, parlare di cinema da vedere in casa, insomma, come sempre tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. 8 nuovi film sono arrivati questo giovedì sui nostri schermi, noi abbiamo scelti 4 e cominciamo subito con quello che è sicuramente il più discusso, il più discutibile, per certi, per alcuni anche il più imbarazzante, sicuramente il più d'autore, perché stiamo parlando di un autore come Lars von Trier, che chiaramente va sempre analizzato quando fa film riusciti o meno riusciti. Adesso cercheremo, anche con l'aiuto del nostro Boris Sollazzo, di inquadrare questo Nymphomaniac che esce dopo le polemiche di Cannes con il suo volume 1. Ci sarà un volume 2 il 24 aprile, anche perché la durata originale del film non censurato era di 5 ore, e esce con qualche taglio, una versione, qualcuno ha detto, edulcorata, e meno male, visto che è praticamente ogni atto sessuale esplicito, ma una versione che è stata accettata in parte, diciamo così, da Lars von Trier, che ha lasciato la firma, ma come dire, non si è riconosciuto in questo spezzettamento e continua a sposare la versione non censurata come la sua versione, il Director's Cut. Sentiamo la clip. Non c'è niente da sorridere. Volevo solo dire, se hai le ali, perché non volare? Se ti chiedessi di prendere la mia verginità, sarebbe un problema. No, nessun problema. Devi chiedere a lui se vuole fare sesso con me. Sì. Mi chiamo Joe. Ciao, Joe. E sono una ninfomane. Sesso dipendente. Noi diciamo sesso dipendente. Questo lo so. Un cigno. Per te va bene se mostro ai bambini il letto dove scopate? Non ho mai incontrato un pessimo essere umano. Beh, adesso sì. E allora, queste un po' alcune delle suggestioni nelle quali il senso dell'erotismo è lontano e nelle quali invece si lavora più su quello che forse è il senso vero del film, che è il senso della profondità dell'essere umano, del suo attaccamento al sesso come qualcosa di, da una parte, di ancestrale, dall'altra, quello della protagonista malato. La storia di un anziano che esce un giorno durante una giornata, una nevicata, e trova un corpo disteso per terra, una donna non più giovanissima, Joe, che è il volto di Charlotte Gainsbourg, picchiata, sanguinante, la porta a casa, la soccorre, la fa stendere sul suo letto e questa donna, appena risvegliata, comincia il suo racconto, la sua storia di una ninfomane. E la racconta con un volto diverso, quello di Stacey Martin, in tutte le sue peripezie, non lasciando intendere nulla quando è il momento invece di far vedere tutto rispetto ai suoi comportamenti sessuali. Un film anche abbastanza lineare, abbastanza semplice, con una scansione tutta in flashback e con diversi momenti in cui si ritorna alla linea del presente. Questo per quanto riguarda questo volume 1, durata 110 minuti, quasi 2 ore. Boris Sollazzo è con noi, ciao Boris! Ciao Franco. Allora, parliamo di questo Nymphomaniac. Io direi, tanto per cominciare a sgombrare il campo da tutte le polemiche, né erotico, perché è un film anti-erotico, qui l'erotismo non esiste, qui c'è tutto a livello quasi scientifico, e per questo direi neanche porno, perché non è un inserimento, a mio modo di vedere, della sessualità esplicita fine a se stesso, ma fine al racconto. Ma sì, un film di Lars von Trier è sempre solo un film di Lars von Trier. Melancolia non era un film catastrofista, Antichrist non era un film horror, Le onde del destino, Dancer in the Dark non era un melodrammone. Sono tutti racconti al femminile, virati secondo lo stile provocatorio, furbissimo, estremamente anatomico, e qui veramente è il caso di dirlo, di Lars von Trier. È una cinematografia che comunque la si voglia vedere, che piaccia o meno, è una cinematografia morbosa. Qui diciamo che forse arriviamo al massimo, nel senso che quello che non è porno, che non è erotismo, è una fredda morbosità nei confronti di quella figura con cui lui non ha mai fatto pace, né nella realtà né nel cinema, appunto la figura della donna. Difficile giudicare Nymphomaniac volume 1, perché chiaramente si sente il bisogno di vedere anche il secondo per capire dove vuole andare a parare, se dobbiamo fare questa operazione monca, possiamo dire che di Nymphomaniac volume 1 rimane solo ed esclusivamente, ma non è poco, il capitolo della signora H con un'Uma Thurman pazzesca, straordinaria, che è un monologo meraviglioso. Per il resto, francamente, è un film che ti lascia totalmente fuori dalla sala, totalmente fuori da quei corpi, totalmente fuori dai sentimenti. Non riesci mai ad entrare neanche in quello che lui vuole raccontarti, cioè in quella anatomia del sesso che rappresenta Joe, questa donna il cui corpo viene trovato martoriato e che decide di ricostruirlo attraverso un racconto al proprio salvatore in cui confessa di essere, guarda un po', una ninfomane, una donna. Non c'è una donna normale nella realtà. Il salvatore in questione, tra l'altro, è Stellan Skarsgård. Sono d'accordissimo con te su quei 5, 7, 8 minuti. Non li ho cronometrati perché ero troppo dentro di Uma Thurman, della scena in cui questa donna va a rivendicare il suo essere moglie di un uomo che l'ha tradita in casa della ninfomane traditrice con i bambini. È un momento di cinema eccezionale che a mio modo di vedere vale non il prezzo di questo biglietto, ma forse dell'abbonamento al cinema per quest'anno. E sono d'accordo con te anche sul fatto che si senta molto il bisogno della parte 2. Basta vedere con quale attenzione tutto il pubblico ha guardato il trailer, chiamiamolo così, del capitolo 2, che appunto uscirà in Italia il 24 aprile e che è attaccato subito ai titoli di coda di questo film. C'è proprio bisogno di guardarlo per capire cosa vedremo, e vedremo una Charlotte Gainsbourg che diventa stavolta lei protagonista, col suo corpo, con la sua fisicità, di tutti i momenti esplicito sessuali di questo film. Questo è Nymphomaniac. Io sono d'accordo con la definizione di Boris, un film di Lars von Trier, mi sembra che questo dica tutto. A questo punto noi per oggi invece giochiamo insieme, perché cominciamo ad sentire la prima delle tracce misteriose di oggi. Te ne vai? Sì. Mi dai un passaggio al paese più vicino? Basta che abbia una stazione. Certo. Trento è a mezz'ora da qui. Allora, ci sono già alcuni elementi su cui potete basare il risveglio della vostra cinefilia, però la rosa purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo. Scriveteci di che film si tratta se l'avete indovinato e scriveteci anche il vostro indirizzo. Provate a vincere uno dei due Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. Oh, oh! Ne ha? Quante? Ne avevo 10 e poi ne ho lasciate tutte. 29 anni e abito a te in casa. Sto cercando una bella ragazza. Voi avete morosi, fidanzati? Non è timido per niente. Probabilmente vuole quello che per te è Marina, ovvero una persona a cui voler bene, con cui è bello far l'amore. Benissimo, allora, a posto. Boris, ce la facciamo in un minutino a dire un paio di motivi per cui è il caso di vedere The Special Need? Assolutamente, perché a mio parere è il film della settimana, è un docufiction quando forse Sacrogra e Tyr non erano stati pensati. Racconta una storia di amicizia tra un presunto diverso, Enea, che ha dei problemi di disabilità mentale e che finalmente ha capito quello che capiamo tutti nella vita, ovvero che è l'amore ciò che cambia tutto la propria esistenza. E lo capiscono appresso a lui anche i due normali, è sempre lui che sta avanti. È un film tenerissimo, è un on the road che parte dal nord Italia e arriva al nord Europa, dimostrando come il nostro paese sia greppo, sia incapace di guardare qualcosa di profondo come i sentimenti e le necessità anche di chi non può permettersi di avere una vita normale. E siccome anche qui si parla di sesso, francamente preferisco di gran lunga Zoratto a Lars von Trier. E allora, questo è il commento di Boris su The Special Need. È un film che ha vinto molto e si è visto molto nei vari festival internazionali e quindi insomma va guardato con grande attenzione nei cinema italiani in questo fine settimana. La rosa purpurea. Come abbiamo fatto a non accorgerci che il figlio che abbiamo cresciuto per 6 anni è il figlio di qualcun altro? Come sarebbe un errore? Non è possibile. Davvero Caetano non è nostro figlio? È un vero e proprio shock. Lui è Ryusei. Lui è Caetano. Per il futuro dei vostri figli, lo scambio sarebbe la soluzione migliore. Sta succedendo tutto talmente in fretta. Ogni giorno che passa, il loro figlio assomiglierà di più a te. E Keita assomiglierà sempre di più a lui. Si può davvero amare un figlio che non è il tuo? È un grande interrogativo quello che apre la seconda parte della Rosa Purpura, è un grande incubo quello che vivono i genitori di Father and Son, ed è un po' l'incubo di tutti i genitori, il famoso scambio nella culla. Insomma, se ne è anche sentito parlare, però braccialetti o non braccialetti, chiunque ha avuto un figlio sa che almeno nelle prime ore c'è sempre stato un po' quell'occhio vigile su qualche particolare del bambino. Ebbene, con grande sapienza anche di regista, Hirokazu Koreeda, regista giapponese, porta in scena questo incubo. Porta in scena questi interrogativi. Si può amare un figlio anche quando hai saputo ufficialmente che non è tuo, non è tuo di sangue, che il tuo magari è da un'altra parte? Cosa si può riuscire a fare? Cosa provano a fare i genitori di Father and Son? Sono appunto gli ingredienti di questo film che, come dicevo, Boris, ha avuto un grandissimo successo di critica in tutto il mondo, è stato osannato anche perché proprio la regia di Koreeda è una regia asciutta, elementare, quasi stilizzata, però molto molto efficace. Beh, è meritatissimo il successo che ha avuto di critica in giro per il mondo, perché a mio parere, oltre la regia veramente essenziale ma non scolastica di Koreeda, c'è un cast meraviglioso, compresi due bambini, che riescono a rendere credibile una storia che è diventata quasi uno stereotipo ultimamente. Ricordo un film di Laurent Levy, Il figlio dell'altra, che raccontava di due famiglie che scoprivano a 18 anni che a Haifa erano stati scambiati un bambino israeliano e palestinese. C'è molto questo problema dell'identità nel nuovo cinema. Interessantissimo però che qui, invece che due popoli si scontrino, due classi sociali, due modi di vedere la vita, due aspirazioni e ambizioni diverse, e come si rovesci effettivamente ciò che siamo abituati a pensare in termini di successo, in termini di aspirazioni per un proprio figlio. E questo rende il film molto speciale, perché è un racconto allo stesso tempo semplicissimo, davvero delicato, quasi una favola, ma è anche un'analisi sociologica e di classe molto molto forte, e questo rende il film, secondo me, molto speciale. Come al solito, le idee più geniali sono quelle più semplici. E allora, questo è Father and Son, un altro dei film di questa settimana che vale la pena davvero andare a vedere. Fra poco parleremo anche di un'altra proposta italiana, Ti ricordi di me? Prima però dobbiamo giocare ancora insieme, dobbiamo giocare con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Ogni volta che salgo in macchina accetto il 20% di probabilità di morire. E mi sta bene. Ma neanche un punto di più. E oggi, con la pioggia, il rischio è maggiore. Secondo me questo dipende da quanto sei bravo sul bagnato. Beh, qui siamo andati un po' più nel dettaglio, diciamo così, per chi non avesse già capito. Ora ci sono tutti gli ingredienti per capire in quale contesto si svolga questo film. Raccontateci, secondo voi, che film è, diteci il titolo, scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, col vostro indirizzo. Due Blu-ray di questo film a vostra disposizione. La prossima settimana scopriremo quali sono i vincitori, invece fra poco scopriremo i vincitori del game della scorsa settimana. Adesso andiamo avanti con la nostra trasmissione. Dobbiamo parlare, dicevo, di un'altra proposta italiana. Si intitola Ti ricordi di me? Dietro la macchina da presa c'è un attore regista che una decina, quindicina d'anni fa aveva fatto molto parlare di sé per una serie di film piuttosto azzeccati. Stiamo parlando di Rolando Ravello. Invece, davanti alla macchina da presa, i protagonisti sono Ambra Angiolini ed Edoardo Leo. Andiamo a sentire la clip. Beatrice Benassi. Roberto Marino. Roberto. Mi dica di lei. Cleptomane. Narcolettica. Mi capita soprattutto quando mi emoziono. Il suo compagno si emoziona? È che mi piacerebbe conoscerla meglio. Sono settimane che mi corteggia regalandomi delle cose assurde. Tempo perso, non fa per te. Che ne sai tu? Istinto. Basta, ho detto basta, basta, no! Persona assolutamente da evitare. Perché io sento proprio di avere delle cose in comune con questa ragazza, capito? L'amore lo riconosci dall'odore, no? E lei ha l'odore della donna della mia vita. L'odore? Il profumo dell'amore? Ma chi sei, Gigi D'Alessio? Allora, ti ricordi di me, il titolo, ma è anche la frase che con una frequenza piuttosto assidua il protagonista di questo film, Roberto, deve rivolgere alla sua innamorata, fidanzata, poi moglie e poi anche madre di suo figlio, ovvero Bea, che ha un problema, ha ogni emozione troppo forte, perde la memoria e quindi bisogna ricominciare un po' da capo. Boris, spira una certa aria di 50 volte il primo bacio, per intenderci. Beh, c'è tanta commedia americana di quel tipo, ne abbiamo viste molte, che scherzavano e si divertivano sul fatto che appunto dalla serendipity alla ricerca di una memoria perduta, raccontano l'amore anche qui alla sua base, nei suoi momenti più semplici. Ravello, devo dire che al secondo film già dimostra di avere uno stile ben chiaro, che è uno stile allo stesso tempo di pancia ma anche molto razionale, sa raccontare una favola ma anche ben ancorata con i piedi a terra. Il film ha qualche problema di scrittura, ha dei momenti di forte discontinuità e a mio parere è più felice nell'interpretazione di Edoardo Leo, che sta diventando una sorta di piccolo Tom Hanks, che riesce a fare un po' tutti i generi, può essere ladro, spacciatore, principe azzurro, può fare un po' quello che vuole con quella faccia normale ma allo stesso tempo molto espressiva, mentre Maggiolini, che ha tra i due il personaggio più difficile, cerca di portarlo a casa ma con più difficoltà. Non stiamo parlando di un capolavoro, ma stiamo parlando di quel classico film che scalda il cuore. Io sfido chiunque, dopo il finale, a non avere gli occhi lucidi e a non fare un sorriso pensando a quello che ci potrebbe essere in un ipotetico sequel, che non ci sarà, ma che potrebbe esserci. E credo che questo basti, insomma, è un film di genere che fa il suo. E allora, questo per quanto riguarda questa proposta italiana, tra l'altro settimana con diversi film italiani in sala, ci sono anche I corpi estranei di Mirko Locatelli, c'è anche Il pretore con Pannofino protagonista, insomma c'è anche Nottetempo, ecco, forse anche Nottetempo con Giorgio Pasotti, protagonista del film di Francesco Prisco, un noir, insomma forse anche un affollamento eccessivo, 5 pellicole italiane su 8 novità in sala. Sempre la tendenza dovrebbe essere quella a gestire bene il nostro pubblico e a cercare di farlo innamorare delle nostre storie per poi riuscire a proporgli un panorama di film più ampio. Boris, grazie come sempre, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Ebbene, bene, questi erano i film in sala. Vi ricordo anche, così come mera citazione, non è che sia un granché, però è una saga che potrà sicuramente attirare i più giovani, come è capitato anche se qui siamo di fronte a un materiale cinematografico e attoriale molto meno importante, Divergent, dicevo, come ha fatto per esempio Hunger Games, come stanno facendo alcune saghe recenti che di fatto rivitalizzano di volta in volta il mito di Giulietta e Romeo, se vogliamo, siamo sempre lì. Questa volta ci prova Divergent. Dicevo, siamo arrivati al momento di parlare di cinema da vedere in casa con gli amici di Film TV, con Giulio San Giorgio. Io prima voglio raccontarvi però una iniziativa, sempre un video, per l'uscita in Digital HD e in Blu-ray e DVD dal 10 aprile I sogni segreti di Walter Mitty, che è stato uno dei film che hanno un po' caratterizzato, anche se in Italia non ha avuto un grande successo, però sicuramente caratterizzato in termini tematici la stagione cinematografica, con Ben Stiller nei panni sia del protagonista sia del regista, la storia di questo tecnico che lavora nei laboratori fotografici del Life, della mitica rivista Life americana, ormai in via di chiusura, insomma una storia d'amore però di un uomo tutto analogico che si deve tuffare in un'epoca tutta digitale. È un film che io vi consiglio di recuperare se non l'avete visto in un video. C'è anche un'iniziativa dedicata a questa uscita, il videoclip della canzone Pagine di Francesco Sarcina, ex Vibrazioni, recentemente anche al Festival di Sanremo, accompagna l'uscita del film in anteprima su Google Play dal 3 al 10 aprile, quindi chi volesse sentirsi questo brano lo può fare in queste modalità. E allora invece andiamo a sentire, con l'aiuto di Giulio San Giorgio, quali sono le proposte della settimana per quanto riguarda l'home video, e cominciamo con la soluzione, in realtà, di quello che era stato il gioco di 7 giorni fa. Sentiamo. Ho dovuto accettare di vendere scarpe a Madison Avenue. Oh, così umiliante. Amiche che erano venute a cena a casa mia venivano ed ero costretta a servirle. Ma tu hai idea di che cosa voglia dire? Eccezionale Kate Blanchett da premio Oscar per Blue Jasmine di Woody Allen, che era il nostro game della scorsa settimana, che è arrivato in un video in DVD e Blu-ray e che hanno vinto, perché sono stati i più bravi e veloci del quiz di 7 giorni fa ad indovinarlo, Fabrizio Secci di Torino e Gianluca Puzzolu di Bolgheri, provincia di Livorno. Saranno loro a ricevere la copia in Blu-ray di questo film, di cui il nostro Giulio San Giorgio di Film TV ci parla così. Ciao Giulio. Ciao Franco, sì, arriva in DVD e Blu-ray l'ultimo film di Woody Allen, una tragicommedia che ha convinto anche molti detrattori di quest'ultimo periodo del regista newyorkese, un film che tra l'altro è stato premiato con il premio Oscar a Kate Blanchett, interprete di una donna distrutta dalla crisi finanziaria e dalle sue speculazioni. Extra non indimenticabili per questa edizione, un approfondimento in cui gli attori parlano dei loro personaggi e del lavoro con il maestro newyorkese, 25 minuti della conferenza stampa losangelina. Questo per quel che concerne il game della scorsa settimana, Blue Jasmine. Giulio, abbiamo il tempo per una segnalazione invece dai palinsesti cinematografici televisivi della prossima settimana, ovvero un bel filmone di fantascienza come veniva intesa la fantascienza negli anni 60, L'uomo che visse nel futuro. Sì, L'uomo che visse nel futuro, mercoledì 9 aprile su Rete 4 alle 15:30, siamo al capodanno del 1900 e un inventore vara la sua macchina del tempo e dopo il 1917, il 1940 e il 1966 finisce nell'Ottocento 2701, nel bel mezzo di un futuro post-apocalittico. Da un classico letterario di Wells, il capolavoro di fantascienza artigianale del mago dei trucchi cinematografici George Pal, che vinse tra l'altro l'Oscar per gli effetti speciali nel 1960. E allora ricordiamo L'uomo che visse nel futuro, mercoledì 9 aprile alle 15:30 su Rete 4. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo giunti così alla fine della nostra trasmissione. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace e unitevi a noi per tutta la settimana per parlare di cinema, anche su Facebook. Grazie a Peter Bescapè che ci ha dato una mano in regia, a Giorgio De Luca e Lorenzo Nespoli in redazione. L'appuntamento va la prossima settimana, ore 16, il sabato. Un saluto da Franco D'Assisi.